Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Decima e ultima puntata. I primi tre giorni che Livia trascorse con lui a Marinella resero meno acuto nell'animo di Montalbano il dolore per la morte del padre e gli fecero in parte scordare il caso Luparello. Soprattutto grazie a certi sogni piombigni che si faceva al recupero, tenendosi Livia abbracciata. Soltanto in parte, però, perché a tradimento il ricordo della sua prima visita a casa Luparello tornava a tormentargli la mente. Lo hanno sorpreso nudo e lo hanno costretto a rivestirsi in fretta. È nudo. Non poteva essere che nella casetta di Capo Massaria. Ecco perché gli ho dato le chiavi. Volevano farne un porco da dare in pasto ai porci in qualsiasi momento. Se non moriva, per loro sarebbe stato meglio, avrebbero potuto fare quello che volevano. Ma il loro piano è riuscito lo stesso, in parte. Tutti gli uomini di mio marito sono fuori dal nuovo direttivo. Solo Rizzo si è salvato, anzi, ci ha guadagnato. E come mai? E questo sta lei a scoprirlo se ne ha voglia. Oppure può fermarsi alla forma che hanno fatto prendere all'acqua. Non la capisco. Da bambina, dove passavo le vacanze, avevo un amichetto, figlio di contadini, più piccolo di me. Un giorno, avrò avuto 10 anni, vidi che aveva messo sull'orlo di un pozzo una ciotola, una tazza e una scatola di latta quadrata, tutte piene d'acqua, e le guardava. Gli chiesi cosa stesse facendo e lui mi rispose con una domanda: qual è la forma dell'acqua? Ma l'acqua non ha forma, dissi ridendo. Piglia la forma che le viene data. Dopo aver fatto l'amore, Livia se ne stette un pezzo silenziosa, poi gli prese una mano. Non riesci a dormire? Che cosa stai pensando? Niente. Montalbano si confermò nella sua convinzione. Se c'era al mondo una persona alla quale avrebbe potuto cantare la messa intera e solenne, quella era Livia. Al questore aveva solo cantata la mezza messa e magari saltando. Fu allora che Montalbano le disse della mannara, dell'ingegnere Luparello, dell'affetto che un suo nipote, Giorgio, nutriva per lui, di come a un certo punto quest'affetto si fosse stravolto, corrotto, cangiato in amore, passione. Quella notte, la notte in cui l'ingegnere Luparello è morto, era con suo nipote Giorgio in una villa. Come con suo nipote? Sì. Un ragazzo bellissimo, sembra un angelo caduto dal cielo. Giorgio era molto attaccato allo zio, solo che a un certo punto l'affetto si era tramutato in amore, in passione. Erano nella villa e stavano facendo l'amore. Solo che quella notte il cuore dell'ingegnere non ha retto. Giorgio, come impazzito dal dolore e dalla paura dello scandalo che avrebbe imbrattato la figura dello zio, cerca di rivestirlo alla meglio per portarlo via di lì. Gli mette anche il suo collare anatomico per sostenergli la testa. Poi, preso dal panico di non farcela e dalla paura di cadere vittima di un attacco di epilessia, male di cui soffre, telefona all'avvocato Rizzo, il miglior amico e uomo di fiducia dello zio, ma non sa che per l'avvocato Rizzo la morte di Luparello, aggiustata come si deve, può essere la sua fortuna. Rizzo ha architetto un piano per gettare fango sull'ingegnere e per tenere in pugno il capo della corrente avversa a Luparello, il dottor Cardamone. Sapendo che la nuora di Cardamone, Ingrid, una svedese, frequenta quella villa, cerca di far cadere tutti i sospetti su di lei. E a questo punto entra in gioco Marilyn, un uomo di Rizzo, un omosessuale. La BMW di Luparello, guidata da Marilyn, con a bordo il corpo dell'ingegnere, morto. Arriva alla Mandana, dove poi Luparello viene ritrovato. Marilyn finge di fare l'amore con l'ingegnere. Poi scende dalla macchina, getta per terra la collana di Ingrid e per essere più sicuro lascia un altro indizio. La borsa, con le iniziali strappate di Ingrid. A te piace questa donna, vero Salvo? Sì, è bellissima. E siccome so che cosa stai pensando, ti dirò che ho distrutto tutte le finte prove a suo carico. Non ti credo. Ho fatto anche di peggio. Stammi a sentire. Rizzo, che ormai è in pugno Cardamone, commette un errore molto grave. Sottovaluta la reazione di Giorgio. In preda all'emozione, sconvolto, Giorgio corre alla casetta di Capomassaria, prende la pistola dello zio che era nella villa, si incontra con Rizzo, lo massacra e poi gli spara la nuca. E non l'hai ancora fatto arrestare, questo Giorgio? No. T'ho detto che ho fatto anche di peggio che distruggere finte prove. I miei colleghi di Montelusa pensano che ad ammazzare Rizzo sia stata la mafia. E io ho taciuto loro quella che credo essere la verità. Perché? Montalbano non seppe rispondere. Si limitò ad allargare le braccia. Tu sapevi che c'era una pistola in quella villa? La pistola che ha preso Giorgio? Sì. E l'hai lasciata lì? Sì. E così ti sei autopromosso? Da commissario a Dio. Un Dio di quarto ordine, certo, ma pur sempre un Dio. Era al bar dell'aeroporto, dove si era recato ad accompagnare Livia, che doveva ritornare a Genova, quando si sentì chiamare da una voce femminile. Commissario Montalbano. Oh, signora Luparello. Ho saputo di suo padre, le faccio le mie più sentite condoglianze. Grazie. È in partenza? No, ho soltanto accompagnato mio figlio all'aeroporto. Se ne torna a Milano, al suo lavoro. Ah. Io lo raggiungo al più presto, il tempo di sbrigare alcune faccende. E poi c'è il funerale. Quale funerale? Ma allora lei non sa. Che cosa? Giorgio, mio nipote, è morto. Come è morto? Ma non si ricorda che qualche tempo fa le telefonai in commissariato per sapere, per avere notizie di Giorgio? Sì, certo, mi ricordo benissimo. Ecco, la mattina dopo non era ancora rientrato. Allora mi sono sentita in dovere di avvertire anche i carabinieri. Ma le ricerche di carabinieri e polizia sono state assolutamente superficiali, mi scusi. Forse eravate troppo occupati ad indagare sull'assassinio dell'avvocato Rizzo. Nel pomeriggio della domenica un pescatore della sua barca ha visto un'auto precipitata sulla scogliera, proprio sotto la curva San Filippo. Conosce la zona, un poco prima di Capomassaria. Sì, la conosco molto bene. Ma si sa come è avvenuto l'incidente? Commissario, lei lo sa. Mio nipote dal momento della morte di mio marito non si era più ripreso. Viveva in stato praticamente confusionale. Troppi tranquillanti, troppi sedativi. Invece di seguire la curva, ha tirato dritto sfondando il muretto. Non si era più ripreso. Adesso, mi scusi commissario, vado a salutare mio figlio. Arrivederla. Presa l'auto che aveva lasciato al parcheggio dell'aeroporto, Montalbano spinse da subito l'acceleratore a tavoletta. Non voleva pensare a nulla, solo concentrarsi nella guida. Dopo un centinaio di chilometri, di là dal parabrezza della sua auto in corsa, agli occhi di Montalbano si profilò all'improvviso una curva secca, delimitata da un muretto mezzo crollato. Si fermò e scese a guardare. In fondo, sugli scogli, lambita dal mare, si scorgeva la carcassa contorta di un'auto. Montalbano ritornò verso l'auto e, dopo essersi assicurato che non ci fosse nessuno per la strada, aprì il bagagliaio prese il collare anatomico che aveva trovato alla mannara e lo gettò nello strapiombo. Restò immobile a guardarlo precipitare, finché cadde in acqua e affondò, sommerso dalle onde. Aveva ragione Livia. Aveva voluto agire come un dio, ma quel dio di quart'ordine alla sua prima e sperava ultima esperienza ci aveva indovinato in pieno. Ci aveva indovinato in pieno. Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Claudia Catani, Angelica Ippolito. Musiche originali di Franco Piersanti, realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.